pressapochismo, sciatteria. Al contrario, scrive Feltri, è un'eccellenza, non milanese, non lombarda, non italiana, ma europea. Un modello di efficienza e organizzazione sul piano della cura e dell'assistenza in favore degli ammalati. Quindi un richiamo dalla prima pagina, una doppia pagina interna, un doppio approfondimento, pagina 8 e 9, che racconta la bufera giudiziaria, ma che appunto spende una difesa a tutto campo della costruzione appunto di quello che Don Verzé ha costruito e realizzato in questi anni. Eccoci qua, siamo praticamente alla conclusione. Vorrei ripartire, anticipare quelli che poi saranno i nostri temi tra circa una mezz'ora, e vi riporto dunque allo speciale consumi che il Messaggero questa mattina fa parlando di saldi. Saldi, avvio ufficiale il 5 gennaio e scontro sulla spesa degli italiani. Confcommercio spera nella ripresa, i consumatori dicono sarà un flop. Insomma, per parlare del vostro Natale, delle vostre spese, più tardi avremo con noi Giovanni Felice, che è il presidente di Confesercenti Sicilia. Palermo, tra l'altro, si porta avanti, il 2 gennaio saranno già saldi, ma anche Aldo Bonomi, sociologo, il direttore dell'Istituto Aster, per parlare di soldi, ovviamente, di soldi che ci sono meno, ma anche di comportamenti di spesa che probabilmente stanno cambiando, non indipendentemente, ma anche e attraverso la crisi e le difficoltà di questi tempi. Bene, per questa prima parte siamo arrivati in chiusura. Ora la linea va a GR24, vedo già Dario Ceccarelli in regia che porta appunto il GR delle 8. Noi ci risentiamo tra una ventina di minuti circa. 24 mattino. 8:20 minuti, 15 secondi, ancora un buongiorno da Gigi Donnelli al microfono, da Peter Bescapè questa mattina in regia. Appena prima di Natale, anzi qualche giorno prima di Natale, il presidente del Consiglio Nazionale Transitorio della Libia, Mustafa Abdel Jalil, è appunto arrivato a Roma per una visita ufficiale. L'ex leader dei ribelli libici ha incontrato il presidente del Consiglio, Mario Monti, e diciamo decisione di immediata di quella giornata, Italia e Libia hanno deciso di riattivare il trattato di amicizia firmato nel 2008 a Bengasi, sospeso durante il conflitto. Ecco, quella decisione di un accordo che peraltro ha diversi contenuti, alcuni dei quali anche piuttosto controversi, è un po' il punto di partenza della visita che invece il primo ministro Monti farà in Libia nel mese di gennaio. Ma un po' quello che ci chiediamo ora è da dove riparte Roma e l'Italia nei rapporti con la Libia. Allora, questa è la prima domanda che vorrei rivolgere questa mattina al nostro ospite, che la Libia la conosce a fondo, uno storico, un saggista, esperto di Libia, peraltro autore appunto tra le molte opere delle memorie, della biografia di Gheddafi, Angelo Del Bocca. Professore, buongiorno, grazie di essere con noi. Buongiorno. Allora, da dove riparte l'Italia in Libia? Beh, insomma, diciamo che con un po' di ritardo si era messo in linea con le altre potenze, aveva partecipato male, ma insomma aveva partecipato a questa guerriglia, e adesso insomma pensa di poter avere tutti i numeri per poter riprendere quella, come possiamo dire, quell'unione, quella fratellanza che è descritta così bene in questo trattato che però non ha molto senso, perché tutto sommato lì si trattava di una, soprattutto di un tentativo dell'Italia di cancellare quello che era stato la nostra presenza coloniale in Libia, e infatti anche l'importo enorme, 5 miliardi di dollari, era una cifra molto molto alta, insomma, molto, molto più di quanto l'Italia pensasse, ma Gheddafi era riuscito con i suoi piccoli trucchi a portare a questa situazione. E questo probabilmente spiega perché oggi Abdul Jalil, come dire, come primo atto nei rapporti con l'Italia, torni a sottoscrivere quell'accordo? Eh beh sì, perché una cifra del genere, anche se il paese ha ripreso a pompare benzina, a pompare petrolio abbastanza bene, insomma mi pare che siamo sul 70% per quello che riguarda l'Italia, no? Logicamente, e quindi non è un paese povero, però è un paese da ricostruire e guarda il caso, abbiamo prima diciamo cooperato per costruirlo e poi ci siamo messi anche noi per distruggerlo. Se diciamo le cifre proposte dalla Banca Mondiale sono vere, insomma siamo intorno ai 35 miliardi di danni e quindi sono danni enormi. Non so quanti anni, forse qualche decennio per ricostruire queste. Ci sono città come Sirte e Misurata che sono in realtà delle macerie. Professore, quelle che per alcuni sono macerie, per altri sono cantieri da aprire. Ora, l'Italia ovviamente guarda alla Libia oggi, come non solo l'Italia, lei l'ha accennato in apertura, come molte nazioni che hanno anche contribuito a renderle appunto macerie per dei cantieri di ricostruzione. L'Italia, secondo lei, troverà, al di là delle buone relazioni, evidentemente, tra due paesi così vicini, quel ruolo particolare che con tutte le contraddizioni, a volte alcune anche enormi, appunto, diciamo, si era in qualche modo sintetizzata nel rapporto Gheddafi-Berlusconi, oppure qualcosa è davvero cambiato? Beh, qualcosa è cambiato sicuramente, altrimenti Sarkozy non avrebbe fatto la guerra, perché questa guerra è la guerra di Sarkozy, è lui che l'ha fatta e credo che avesse dei buoni motivi. I motivi sono esatti e previsti, insomma, anche a Sarkozy, alla Francia, interessa il petrolio libico, loro non erano molto, diciamo, presenti, e poi soprattutto la ricostruzione. In realtà ci sono moltissime cose da fare, oltre appunto a rimettere in ordine il paese semidistrutto. Ma poi secondo me c'è anche un altro fatto. Sarkozy è forse una delle persone responsabili della morte, quella morte straziante di Gheddafi, e proprio perché voleva impedire, lui e altre persone, altre potenze anche, e beh, voleva impedire che Gheddafi raccontasse le cose come sono andate, e credo che tutto sommato, da quello che è stato, quello che poteva essere il suo racconto, bene, uscivano tutti piuttosto male. Insomma, una verità che in questo caso lei dice è davvero però morta con il leader della Giamahiria, o perché insomma non era solo, ma lei tra l'altro ha anche scritto recentemente, una delle questioni aperte oggi per la Libia è cosa fare delle migliaia di persone che hanno contribuito a questo regime e magari in questo caso anche a condividere alcune verità. Ma guardi, se prendiamo per buona le cifre date da loro, i gheddafiani in carcere sono circa 7.000, però moltissimi altri sono in bilico. Per esempio ho saputo di recente che il direttore del Libyan Study Center, che è il più grande organismo culturale libico, è stato per qualche tempo chiuso in casa e si poteva pensare addirittura che era in pericolo di vita. Adesso pare che gli abbiano assicurato la vita, ma certo perde le sue funzioni. Quindi c'è tutto un cambiamento in quello che era un paese che, insomma, magari male, ma funzionava, e quindi non è una cosa molto semplice quella di ricostruire questo paese, anche se da un rapporto fattomi proprio ieri sera dal mio carissimo amico avvocato Fechini, che è il famoso nipote del capo della resistenza contro gli italiani negli anni 30, Ebbene, mi diceva che tutto sommato, però lentamente si sta ricostruendo. Qui non si parla solo di edifici, qui si tratta di costruire un'entità economica, un'entità politica. Ecco, lui è abbastanza così ottimista, e anzi proprio ieri sera era in viaggio per Londra e poi oggi arriva a Tripoli, e il suo apporto a questa nuova Libia è quella di fare delle conferenze. Ne ha già fatte parecchie nei giorni scorsi, conferenze per mantenere alto il livello della democrazia, lui dice. Lui, essendo un democratico, poi un avvocato internazionale famosissimo, ha queste speranze. Io sono meno ottimista. Lei è più scettico, professore. A proposito di Anwar Fekini, che se non sbaglio lei ha citato già in altre occasioni, appunto tra le sue fonti privilegiate di una vita di lavoro su questi temi, immagino. A proposito, in quell'occasione mi ricordo che parlava della resistenza nel Jebel e disse che questo era ancora, diciamo, Gheddafi in fuga, che sarebbe stata un po' la chiave nel momento in cui la resistenza nel Jebel, nelle montagne, avrebbe preso consistenza, Gheddafi avrebbe perso il controllo del potere. Ma in quell'occasione lei sottolineava anche la complessità che poi si sarebbe presentato a chi poi avrebbe dovuto gestire il potere. Morale: CNT oggi, e diciamo da qui a 6 mesi, si apre una nuova fase costituente, si sta definendo come un corpo, diciamo, guida del paese, oppure le sue divisioni all'interno sono ancora molto complesse? Ma guardi, proprio ieri sera, discutendone con Fekini, mi sono quasi arrabbiato, perché davanti al suo eccessivo ottimismo io gli dicevo: ma guarda che la rottura fra la Cirenaica e la Tripolitania è ancora manifesta. Sì, sarà vero questo, lo è sempre stato, ma io andrò a fare un viaggio anche a Bengasi, Tobruk, negli altri paesi della Cirenaica, per vedere la realtà sul serio. Beh, io penso che questo CNT è in grosse difficoltà, perché è un organismo che non è riuscito neppure a far depositare le armi, insomma, è un paese pieno di armi. Un paese pieno di armi in cui l'Italia, e non solo, ma insomma, visto che parliamo da qui oggi, deve ritrovare e definire un proprio ruolo, un percorso lungo e complesso. Io ringrazio Angelo Del Bocca per essere stato con noi, davvero interessante sentire da lui quegli aggiornamenti, anche come avete sentito, freschissimi, delle sue fonti personali sulla situazione in corso in Libia. Non dimentichiamolo, un pilastro nei rapporti di scambio energetici con il nostro paese, ma anche un paese evidentemente chiave in un contesto, quello nordafricano, che è piuttosto complesso di questi tempi. 24 mattino. Di quanto e in che modo abbiamo compresso o ridotto i nostri consumi, e in che modo i saldi ci spingeranno, come dire, a spendere magari anche una parte di quello che appunto abbiamo deciso di non spendere, o abbiamo o non abbiamo potuto spendere durante gli acquisti prenatalizi. 800 24 00 24, come sempre il numero verde per condividere con noi qui e con i nostri ospiti il vostro pensiero. E allora io intanto saluto Giovanni Felice, presidente di Confesercenti Sicilia. Buongiorno, grazie di essere con noi. Allora, intanto Palermo, la Sicilia si porta avanti sul fronte dei saldi. Partenza prevista già per il 2, ho letto. Sì, a Palermo i saldi partiranno il giorno 2, c'è un decreto assessoriale che consente questo, contrariamente a quanto avviene in tutto il territorio nazionale, che partiranno il 5. Ecco, diciamo, prego. Dicevo, i saldi sono un aspetto ovviamente importante, valgono secondo le stime 6,1 miliardi di euro, il valore complessivo appunto di fatturato del settore in una stagione, lo abbiamo ripetuto ormai più volte nelle ultime 24 ore, in cui l'Italia e in cui gli italiani hanno speso 400 milioni di euro in meno di un anno fa, e quindi il 18% in meno. A questo proposito, questi numeri, diciamo, li ritrova sul territorio siciliano? Ma diciamo che in proporzione anche qui il calo ha riguardato soprattutto il settore del tessile e delle calzature. Speriamo con i saldi un recupero, anche se le associazioni dei consumatori parlano di ulteriore calo. Noi speriamo che questo non sia vero, anche perché in Sicilia c'è una situazione contingente, noi dipendiamo molto dal pubblico, e il pubblico ad oggi non ha liquidato gli stipendi di dicembre delle tredicesime, quindi speriamo che questo flusso di denaro che entra nelle tasche dei cittadini in qualche maniera rilanci l'economia. Ecco, quindi lei su questo, diciamo, in qualche modo risponde anche alla domanda successiva: quanto è risparmio e quanto invece è proprio incapacità o comunque estremamente ridotta capacità di spesa? Lei dicendo appunto del pagamento di stipendi tredicesimo, mi sembra di capire, dice, dalle nostre parti per molti è proprio mancanza di denaro. Noi ci sommiamo anche la disoccupazione dovuta ai grossi impianti industriali che hanno chiuso, Fiat su tutte, la preoccupazione per il futuro di molte società municipalizzate. Diciamo che c'è una mancanza di denaro, ma anche molta paura per il futuro, e quindi diciamo che la crisi è figlia sia di una mancanza di denaro, ma anche di preoccupazione per il futuro. Ecco, in che modo la leva delle date, dei saldi, a suo avviso, nella sua esperienza, interviene su questo scenario, se può intervenire? Intanto la differenza tra il 2 e il 5 è minimale, perché se si fosse trattato di portarlo a fine gennaio avrebbe avuto un senso. Dal 2 al 5 noi avremo che la gente non spenderà una lira in questi 4 giorni per poi cominciare a spendere il 5, quindi diciamo che la differenza non la reputo significativa. Invece io continuo, esprimo una preoccupazione che riguarda soprattutto il commercio tradizionale. Il commercio tradizionale si è formato attorno al ceto medio, un ceto medio che è sempre meno presente, per cui noi abbiamo le GRIF che continuano ad andare bene, che risentono meno della crisi, paradossalmente i beni di lusso soffrono meno della crisi, come soffrono meno della crisi tutto il prodotto che è a basso prezzo, mentre invece i prodotti che noi definiamo medi sono quelli che soffrono di più, penalizzando di più il commercio tradizionale, e questo è un aspetto che ci preoccupa, perché anche sui saldi si ripercorrerà questo meccanismo. Insomma, il ceto medio in difficoltà. Io saluto Aldo Bonomi, sociologo, direttore dell'Istituto di Ricerca Aster, editorialista del Sole 24 Ore. Buongiorno, grazie di essere con noi. Buongiorno a voi. Ecco, se lo spread è un po' la misura delle preoccupazioni generali di questi tempi, questi dati sugli acquisti sembrano quasi la temperatura di un ceto medio che tra prudenza o difficoltà obiettive, come ci spiegava il nostro ospite da Palermo, ritiene che, insomma, come dire, quantomeno sia meglio attendere, ma quanto? Beh, non c'è dubbio che bisogna prendere atto che dentro la crisi è cambiato la dimensione della composizione sociale di questo paese, quella sotto stress, nel senso che eravamo abituati, giustamente, ed erano stati segnalati ed erano stati difesi i ceti operai, ed è una cosa che non è nata solo dentro la crisi, la grande crisi, ormai possiamo chiamarla così, che viene avanti dal 2008, ma ovviamente in un decennio la crisi della dimensione operaia era agli occhi di tutti ed era sotto l'attenzione di tutti, e quindi qui era stato coniato giustamente con lo slogan tutto politico: non si arriva alla quarta settimana, e ovviamente lì era il dato anche rappresentato dalla cassa integrazione, dalla difficoltà ad avere un reddito. secondo passaggio, dentro la grande crisi si è incominciato a toccare un ceto, diciamo così, burocratico impiegatizio, che fa parte, diciamo, la classe media, la parte bassa della classe media. È ovviamente indicativo l'ospite da Palermo che, certo, diceva non ci sono stati gli stipendi dalla regione, se ho ben capito, dagli enti pubblici, e quindi che non sono stati liquidati a dicembre le tredicesime, quindi ovvio che quello che è il ceto burocratico impiegatizio. E poi siamo arrivati anche al ceto medio, nel senso che ovviamente il ceto medio è quello che in questo paese si è costruito la sua medietà di benessere attraverso il bene casa, ovviamente, che è stato colpito ed è stato il simbolo di questa manovra. Quindi non c'è dubbio che tutti sono stati colpiti e hanno un problema di questo genere. Dentro questo, quindi, se tutti si percepiscono o sono, molto importante questo, più poveri e con meno benessere, è chiaro che da questo si arriva alla riduzione dei consumi. Anche qui però va fatto un ragionamento: quant'è la povertà assoluta? Allora, non c'è dubbio che è in aumento la povertà assoluta, quelli che ovviamente hanno difficoltà e quindi si rivolgono e hanno superato, se posso dire, la vergogna della povertà, no? E quindi si rivolgono anche a strutture come le Caritas, le mense, eccetera. Sto parlando proprio di una dimensione che probabilmente non sarebbe mai entrata nella statistica dei consumi, no? In queste statistiche di cui stiamo ragionando noi questa mattina. Però ovviamente anche quella c'è ed è in aumento. Ma quello su cui mi focalizzerei sono due dimensioni di percepirsi o sentirsi poveri: la povertà relativa e la povertà percepita. La povertà relativa è quella per cui l'Istat ci dice che se in una famiglia media che ha un reddito o anche due redditi intervengono delle spese straordinarie, questa famiglia media entra in difficoltà. E non c'è dubbio che le spese straordinarie sono arrivate, nel senso che si sa, e ormai è ufficiale, che tendenzialmente dovremo spendere, una famiglia media, rispetto agli aumenti che ci sono stati, benzina, tasse, eccetera, eccetera, avrà da spendere un'emergenza annuale di 1.000 euro. Benissimo, questa emergenza annuale di 1.000 euro su un bilancio familiare induce ovviamente una povertà relativa. Poi il vero problema però che secondo me frena i consumi e frena ovviamente l'acquisto di alcuni beni, e mi pare di capire che poi su questo c'è una selezione mirata, perché alcuni beni si rinuncia o si aspettano i saldi o si vede l'occasione per ciò che riguarda scarpe, abbigliamento, eccetera, ma soprattutto in questa direzione. Beh, allora questo è un problema di povertà percepita, cioè ci si percepisce, virgolette, a rischio di povertà, e quindi ovviamente percependosi in questo modo, che vuol dire percepire l'incertezza, la paura, eccetera, è chiaro che si incomincia a limitare, virgolette, il consumo. Si adattano anche, si ricostituiscono delle scale di priorità, perché esatto, c'è anche, sono degli spazi per questo. Allora, abbiamo un'ascoltatrice che ci chiama da Genova, e vorrei subito darle la parola prima degli aggiornamenti per la viabilità. Rosa Maria, buongiorno, benvenuta. Buongiorno. Allora, io sento sempre un sacco di parole. In radio, signora, tutti, è quasi inevitabile. Sì, anche voi, mi dispiace. Dunque, dica. Qui abbiamo avuto, io non capisco come possiamo andare ancora avanti, quello è il punto. Allora, abbiamo avuto, nel 2003 hanno fatto 1.000 lire, 2.000 lire. E ci siamo trovati lo stipendio e la pensione dimezzata, e questo non per colpa di Prodi, ma anche la... Lei parla dice l'introduzione dell'euro ha dimezzato il nostro potere d'acquisto, e oggi è in questo... No, no, calma, aspetti, mi lasci dire qualcosa. Prego, signora. E questo l'abbiamo fatto noi italiani, cioè tutti quelli che erano liberi di fare, invece di andare, visto che noi siamo un popolaccio, dovevano andare negozio per negozio, fabbrica per fabbrica, perché questa è una nazione governata da persone come si deve. Quindi noi abbiamo avuto una svalutazione del 100% da un giorno all'altro. Come si poteva pensare di poter andare avanti? Signora, la storia però, come dire, proprio perché ci occupiamo di parole, l'abbiamo raccontata oggi, lei dice, quando parliamo di povertà percepite, di sentimenti, mi sembra di capire che lei dice altro che parole e sentimenti, qui c'è un problema obiettivo, di numeri, di conti, di euro in tasca, ho capito bene? Signore, non volete che lasciarmi parlare, eh? No, signora, la stiamo facendo parlare. Allora continuiamo. Non abbiamo tutta la mattina, per cui mi dispiace. Prego. Guardi, io sono una professoressa di matematica, sì, e mi comprometto, perché se dico delle scemenze mi dicono, cara signora, ma cosa sta dicendo, a cominciare dai miei ragazzi? Certo. Allora, la nazione, questi governi deve dire, da domani si rimette a posto il nostro euro, da domani. Come si fa un appartamento 350 milioni, 350 mila euro? Pronto? La stiamo seguendo. Ah, ecco, no, perché certe volte mi chiudo. Lo capite che sono 700 milioni per la maggioranza della nazione? Ma com'è possibile? Grazie Rosa Maria, il suo concetto è chiaro e naturalmente noi siamo qui proprio per dare voce a tutti voi, oltre che per sentire i nostri esperti che magari ci aiutano anche a focalizzare delle situazioni, naturalmente vi chiedo di farlo nel possibili, diciamo, tempi radiofonici. Adesso sentiamo brevemente gli aggiornamenti per chi è in viaggio, poi abbiamo un altro ascoltatore. Gianluca da Firenze, buongiorno, ci dica. Sì, buongiorno. Senta, non so se è ancora presente l'ospite in trasmissione. Sì, prego, ci dica. Volevo domandare, non sento mai parlare, non sento mai fare il paragone in questi tempi di crisi del periodo, diciamo, migliore dell'Italia, quello a cavallo tra gli anni 50 e gli anni 60, no? Nella quale la crescita è stata, diciamo, assolutamente preponderante in termini economici. Però nessuno parla del fatto che in realtà in quel periodo gli italiani avevano effettivamente bisogno di crescere e di acquistare. Io ho la sensazione che negli ultimi 20 anni gli italiani abbiano acquistato molto più di quello che era necessario per il loro vivere, e la crescita, ho la sensazione che sia basata fondamentalmente dell'acquisto del superfluo, del qualcosa in più. Io i negozi comunque, io vedo la gente continua a comprare, però una crescita basata sull'acquisto del non necessario, secondo me, può essere rischiosa. Grazie a Gianluca da Firenze. Allora, Bonomi, anche questo è sicuramente un elemento, l'abbiamo accennato prima, insomma, quanto c'è elemento di riduzione delle eccedenze, del superfluo. Certo, il problema, come sempre ci spiegano gli esperti di economia, è che quando poi si saldano una magari ragionevole riduzione del superfluo alla paura dell'acquisto, beh, il sistema nel suo complesso poi paga il conto. Ma sono perfettamente d'accordo con la domanda dell'ascoltatore di Firenze, nel senso che credo che ci sia una componente anche di, virgolette, selezione e taglio del superfluo e dell'eccedenza, però lui poneva una questione molto più centrale, lui faceva riferimento agli anni in cui questo paese è cresciuto dentro il boom economico, gli anni 50 e 60, in cui si veniva da una fase di scarsità, di ricostruzione, e in cui c'era effettivamente la crescita. E quindi dentro la crescita c'era un'esigenza di costruirsi le case di proprietà, fare i sacrifici, andare avanti, e nello stesso tempo ovviamente incominciare anche quella fase dei consumi che poi è andata come il boom economico, eccetera. Il vero problema è che anche oggi c'è un problema di ripresa e di ripartire, però la dico subito la mia opinione, ha ragione l'ascoltatore, non si può ripartire e ricominciare a crescere se i meccanismi di consumo, i meccanismi di produzione, i meccanismi economici sono gli stessi. Io credo che, e spero, che venga avanti una nuova fase in cui, ad esempio, la produzione delle merci sia molto più compatibile con una dimensione di limiti ambientali e che quindi, e questo famoso dibattito sulla green economy, quindi il capitalismo, dico proprio il capitalismo, chi produce le merci incorpora il concetto di limite, sia nel produrre automobili di un certo tipo, sia nel costruire case in un determinato modo, sia costruendo beni che abbiano incorporato questo concetto, e allo stesso tempo anche i consumi tengono conto di questo. E non dimentichiamoci che alcune cose stanno venendo avanti, ad esempio negli alimentari, le esperienze di chilometro zero, di comprare virgolette i prodotti di un certo tipo, ma non sto parlando solo dei prodotti chic del biologico, sto parlando proprio anche di ciò che i gruppi di acquisto solidale, cioè c'è ormai una tendenza in cui ci si pone questo problema del consumo e della fruizione delle merci in una maniera compatibile. Insomma, ci sono anche lezioni da trarre da questa fase. Io ringrazio Aldo Bonomi di essere stato con noi questa mattina. Vorrei concludere tornando a Palermo con Felice Giovanni, che lo ricordo è il presidente di Confesercenti Sicilia. Ecco, nell'immediato, nell'intervento su quelle che sono poi queste giornate complesse per i commercianti in tutta Italia, ecco, ci sono a suo avviso delle iniziative, in che modo questi saldi possono aiutare a sostenere comunque il Palermo e ovviamente per estensione anche il paese nel suo insieme? Ma io ritengo che il commercio in questa fase abbia un ruolo passivo. Chiaramente gli sconti incentiveranno gli acquisti, ma io credo che noi dovremmo fare un ragionamento più di fondo. L'Italia è una nazione costruita su industrie di piccole e medie dimensioni. Il fatto che noi per tanti anni abbiamo privilegiato la grande distribuzione ha creato uno sfasamento tra produzione e distribuzione. Quindi dice in questo senso anche i saldi non possono intervenire. Ma diciamo i saldi saranno come dire un pannicello caldo che in qualche maniera come dire smuoveranno l'economia, forse permetteranno a qualche azienda commerciale di avere l'azienda, ma il nodo strutturale del rapporto produzione distribuzione va affrontato, perché se il campo della distribuzione, c'è la grande distribuzione, ha bisogno di grossi fornitori, quindi tutti i nostri piccoli produttori sono tagliati fuori. Io penso alla realtà del marchigiano o del pugliese, e di fatto quando c'era una distribuzione fondata sulle piccole aziende avevano uno sbocco diretto sul mercato. Oggi non trovano più sbocco sul mercato, quindi bisognerebbe riragionare nel rapporto tra distribuzione e grande distribuzione e dare più spazio ai piccoli e medi esercizi per consentire anche alle piccole e medie imprese produttive di avere uno sbocco sul mercato. Questo significherebbe più produzione locale, più prodotto interno lordo, una ripresa della ricchezza. Beh, che peraltro è quello che con diciamo altri termini, in un altro contesto, lo stesso Bonomi diceva poco fa. Resti ancora un momento con noi e forse facciamo in tempo a dar voce ancora a un ascoltatore. Da Milano, Fabio, buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti. Ma allora, io quello che sto osservando, io mi occupo di vendite, ma nel settore informatico, e faccio questa constatazione, anche con i miei colleghi spesso si parla degli acquisti, dove andare a comprare le cose, dove cercare di risparmiare, no? E non è secondo me, secondo altre voci ascoltate in questi giorni, parlando tra colleghi, che possono essere i saldi un po' a risolvere i problemi. Qui secondo me c'è un problema di base molto più importante, che è quello di cercare di capire come andare a risparmiare e come faceva una volta qualcuno, rivoltare il cappotto quando è necessario. Cioè, incominciare a essere un pochino più prudenti sulle spese e avere un occhio un pochino più lungo su quelli che possono essere risparmi, che poi ci possono consentire di vivere in maniera più serena e più prudente. È assolutamente dignitosa. Grazie a Fabio da Milano, grazie agli ascoltatori, molti messaggi, molti gli SMS questa mattina, molti che dicono, che fanno i complimenti alla professoressa Rosa Maria e che mi sgridano per non averla lasciata parlare abbastanza, lungi da noi, ma è chiaramente importante se cerchiamo di portare alla sintesi gli interventi e gli ascoltatori, è per dare più spazio, per dare spazio a più interventi. Insomma, una battuta in conclusione. Giovanni, vorrei chiederle in questo contesto, ecco, c'è una lezione da trarre dal punto di vista dei commercianti? C'è qualcosa da ritenere, da tenere da questi tempi difficili che a suo avviso potrebbe essere applicato per aiutare appunto a crescere, a quantomeno a compensare la situazione attuale? Ma guardi, noi abbiamo la convinzione che non è vero che la gente spende meno, il problema è che è cambiata la natura della spesa rispetto a una decina di anni fa. Bisognerebbe capire quanto è cambiata la spesa in termini di telefonia o quanto spendiamo in più nei giochi. Probabilmente con la lancetta ferma 10 anni fa su questi due tipi di spesa, probabilmente ci sarebbe una maggiore spesa destinata ai consumi. Quindi c'è sì la crisi, ma c'è anche, ripeto, ormai un modello di spesa che è cambiato, dove c'è magari meno attenzione per il bene del consumo e si cercano altre sponde, magari determinate alla crisi, per cui si pensa che il gioco possa in qualche maniera essere una risposta. Basta guardarsi in giro in città, quanti nuovi negozi di giochi aprono, quanti incidono il gratta e vinci e tutto il resto. Io credo che probabilmente dobbiamo ragionare su come rilanciamo la produzione, perché è fondamentale. Grazie a Giovanni Felice di essere stato con noi, lo ricordo, presidente di Confesercenti Sicilia. 8:58, ora la linea torna a GR, subito dopo si parla di casa con Oscar Giannino, quindi ancora un'ora di spazio, di approfondimenti e di telefonate per gli ascoltatori. Un saluto, a domani.